fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siamo sempre in diretta, anche se ormai la notte si sta, come dire, facendo strada con grande, grande forza, nel senso che sono le 3 del mattino, quindi ormai siamo in piena ciao, nottata, ragazzi, ciao, ma ciao, c'è ancora ciao. Grande voglia di divertirsi e grande voglia soprattutto di raccontarsi, come ci piace dire. È il caso dei due ragazzi che abbiamo qui, e protagonisti insomma di una festa questa sera, di un momento la importante festa. Da ricordare, la festa del nostro Giuseppe, che abbiamo i nostri microfoni, benvenuto. Grazie mille. Oh Giuseppe, da dove vieni? Da Vailate, Cremona. Vailate, Cremona, accompagnato da? Daniele, anche tu. Sì, sì, squadra sì. Che c'è fuori. Sì, esatto, sì, non l'unico, squadra. Chiaramente, ne ho visti parecchi. Sì, sì, siamo una decina di ragazzi pronti a festeggiare l'addio al celibato di Giuseppe. Di Giuseppe, ok. Allora Giuseppe, raccontaci un po', con chi ti sposi e quando? Con Roberta l'11 maggio. 11 maggio, e loro sono tutti i tuoi amici, tutti i compagni, colleghi, non so. Testimoni. Sì. E poi tutto il resto della compagnia. Ah, una compagnia, insomma, è amici, quindi. Amici. E tu sei? Io sono un amico di Giuseppe e di Roberto. La moglie della testimone, mia moglie. Sì, sì. Oddio, aspetta, allora, mia moglie è la testimone di Roberta. Che tua moglie è la testimone di Roberto, sì, sì. Ok, quindi sono molto amiche, sì, immagino. Sì, sì, assolutamente, da anni, secondo me. È bella questa cosa del fatto che succede anche in questo caso spesso, che come dire, ci si conosce e per quasi interposta persona si diventa amici, ma in modo sincero. Sì, nel sì, senso che comune... immagino che voi due non vi conosceste prima a questo punto, no? No, beh, avevamo delle amicizie in comune tanti anni fa. Sì, però diciamo il legame forte era tra la tua ragazza, insomma, tua moglie e la sua futura moglie, e quindi per forza di cose vi siete conosciuti voi, ma a tal punto che insomma ti ha portato in questa serata importante, quindi significa che il rapporto è solido e sincero. Ci siamo divertiti, l'importante è divertirsi. No, beh, assolutamente, quello sì. Però dicevo che a volte sembra, come dire, si dice sempre che i rapporti siano un po' forzati, automatici, come in questo caso, per forza di cose, invece no, è bello che poi si nasca, cioè, da una condizione necessaria, nel senso che se le vostre compagne si conoscono, va da sé che prima o poi anche voi vi conosciate, da una situazione, dicevo, necessaria, poi si creino dei rapporti sinceri, questo è molto bello. Allora, cosa fate di bello nella vita o insomma? Io l'ambulante, i mercati. I mercati? Davvero? Sì. E dove giri? Provincia Lodi e Milano. Lodi, Milano? Pensa un po', e cosa vendi? Casalinghi. Articoli casalinghi, tipo? Fammi qualche esempio. Detergenza, casa e persona. Ok, ok. Da tanto lo fai? 8 anni. Cavolo, sì. E ti piace? Sì, mi lavoro. Ma hai coinvolto anche la tua futura moglie? Da o? 3 anni che sono. Perché di solito si va insieme. Prima sorella, poi è solo come moglie. Sì, perdonami, non è un discorso delle 3 del mattino, ma è più una curiosità che quanto. Dal punto di vista dei permessi, cioè nel senso, avete dei permessi particolari o cioè dovete continuamente chiederli? No, è come gestire dei negozi, praticamente come se avessi un negozio ogni paese che tu... Ok, ma tu sei chiamato, contattato dall'amministrazione comunale, per dire, cioè nel senso, come funziona? Perché tu vai lì? Ti ripeto, come se faccio un negozio, compri la licenza del posto, ok, vai il tuo posto ogni giorno, ogni settimana metti il tuo banchetto e facendone più vari insomma durante la settimana, e insomma fondamentalmente 5 giorni a settimana quelli io ho i miei, esatto, ti ripeto, tipo specie negozi che tu... E come mai questa scelta ambulante invece del negozio fisico? Così, ho provato. Perché abbiamo parlato anche poco fa con un ragazzo di Brescia che pensa vende macchine online, cioè solo online, anche lui non ha un negozio fisico, ha detto che fa tutta la contrattazione online e fino a quando il cliente accetta, perché chiaramente, come dicevo prima, il modello della macchina, la marca, più o meno, insomma, si può capire di cosa si sta parlando, quindi nel momento in cui si trova l'accordo, allora solo a quel punto gliela fa vedere, e se lui vede che è in condizioni buone. Ho provato, perché già famiglia c'era, gente c'era dentro, ho proposto, ho provato, è andata, mette sta piaciuto. Andando. E ti è piaciuto? Spero vada avanti. Beh sì, alla fine insomma contento. Mercati ci sono sempre e non cambieranno, non cambieranno mai. Spero io. No. Beh, però fai 6 giorni a settimana? 5 su 7. Ah, 5 su 7, però lavori sabato? No. Sì, mercoledì, sabato sì, mercoledì, domenica, giorno di riposo. Mercoledì e domenica, giorno di riposo, vedi, vedi, cosa particolare. Quindi anche tradizione di famiglia, quanto mi dicevi? Da parte cognati e mia sorella. Ah, ok, ok, vedi, interessante, è anche bello scoprire anche nuovi mondi. Daniele, invece, ti occupi di... impiegato di magazzino. Eh? Come, scusa? Impiegato di, ecco, vedi, da una cosa particolare, tradizionalissimo, tradizionalissimo. Una cosa sicuramente opposta. E beh, impiegato di magazzino significa? Sì, che gestione. Parliamo della gestione del furgone, appunto della logistica, organizziamo i furgoni che trasportano appunto mobili. Mm-hmm. E quindi ci occupiamo di organizzare i furgoni per il trasporto. No, bello, bello. Prima volta che venite nel nostro locale? Siete io mai sì. stati? Io sì, allora, è prima volta. Io prima volta anch'io. Quindi siamo stati sicuramente bene. Oh, bello, bello. È affascinante come posto, ma sicuramente un target... Abbiamo età diverse, cioè nel senso vediamo sicuramente età di 20, no, anche perché così mi viene in mente, sono tantissimi tavoli stasera, però mi viene in mente due, saranno oggi? Secondo me adesso non voglio dire, ma le 600-700 le tocchiamo tranquillamente. No, però dicevo, mi vengono in mente due su tutti i tavoli per trovare un estremo o un altro, una classe del 1959 e una classe del 1993. Questo per far capire come c'è. E nel mezzo, esatto, e nel mezzo c'è un purpurri di tante altre cose. E beh, come mai avete scelto questa festa, questo tipo di festa? Questa location, perché appunto guardando su internet... No, beh, ma indipendentemente dal tipo di festa, il tipo di serata, perché sai che l'addio al celibato, ci sono vari modi di passarlo. L'addio al celibato, ci sono diversi modi per festeggiarlo, però vedendo un po' il contesto, un po' la situazione, mm-hmm. che... attraverso immagini su internet, così ha sicuramente contagiato anche noi. No, beh, bene, compagnia. Bene. No, più che altro era per capire, sai che l'uomo, cioè nel senso, la donna è più terme, relax, cose del genere, l'uomo magari è più rafting, quelle esperienze, quelle esperienze di gruppo. Però, allora, noi abbiamo. Non avete pensato a questo tipo di... e sicuramente ci faceva bene. Un'atmosfera di questo genere, no, un po' di anni che un po' di ogni tanto, ecco, staccare un attimino la spina. Un po' di anni che stiamo rinchiusi tra figlie e mogli. Sì. Ah, perché siete già anche sì, io ho già una figlia. Nello stadio, due, stadio successivo, figlia due, io una. Perciò... Quindi siamo sicuramente. Beh, insomma, staccare la spina un po', dai. Collaudati. Staccare un po' la spina e cambiare un po' atmosfera. Ok, allora Giuseppe, mi approfitto ancora di te un attimo, se vuoi fare qualche saluto, vuoi dire qualcosa, insomma, magari anche agli amici che sono fuori. Amici, Daniele, l'altro Daniele, tutti i miei restanti amici e mia compagnia che mi hanno portato qua per fare questa grandissima serata in augurio del mio matrimonio da qua un mese, sperando che si concluda il tutto per il meglio. Dai, ne siamo sicuramente certi. Siamo stati bene tutti, sicuramente. Ok, benissimo. Allora, grazie mille ragazzi, grazie per essere stati con noi e buonanotte a questo punto, perché siamo quasi al termine della serata, ma soprattutto auguri al nostro Giuseppe e in bocca al lupo per il suo futuro matrimonio. Grazie mille, ciao! Ciao a tutti!